qua. Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, mic check check 1 2. Sound check, il suono della musica di Gigi Telesforo. Con questa versione di Jingle Bells di Lionel Hampton intitolata Swingle Jingle diamo il via al soundcheck di questa sera. Ancora una volta buon Natale a tutti voi da Gigi Telesforo qui dal Groovemaster Studio e buon Natale a Francesco Tromba. Grazie e buon Natale a tutti. Francesco, mi sa che solo con la cena di ieri e il pranzo di questa mattina avrai preso 3-4 kg. Sicuramente, perché veramente c'era una quantità di roba che non mi ha assolutamente fatto rimpiangere casa. Ma hai visto quanta roba hanno cucinato? Sì, tantissima, infatti è rimasta anche per pranzo, poi hanno cucinato anche altra roba per pranzo. Adesso gli daremo il colpo di grazia a tutto quello che è rimasto. Sì, però, assolutamente. Infatti ho detto a mia madre, non cucinare per questa sera, ci arrendiamo, però so che adesso su scaldiamo qualcosa e si continua a mangiare, perché qui non si butta nulla, mio caro. Assolutamente, perché sarebbe un reato proprio. È vero, ieri con il mio papà ci siamo divertiti a proporre i grandi classici del Natale a opera delle più belle le voci, secondo lui, ma anche secondo me, insomma, abbiamo ascoltato da Ella Fitzgerald, Diana Krall, Ray Charles, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Bing Crosby addirittura, i grandi classici con le voci più belle di sempre. Oggi invece alcuni classici più o meno famosi proposti da alcuni fra gli strumentisti che hanno reso la storia del jazz importante. Sì, però tuo padre mi ha detto di rimproverarti ancora perché non hai messo Carmen McRae ieri e non c'avevi il disco a casa, lui era convinto che lo trovasse, è mio padre, mi deve sempre rimproverare per qualcosa. Sì, perché sbagli sempre qualcosa. Ecco, va bene. Allora, sai che facciamo? Siccome abbiamo proposto Jingle Bells nella versione di Lionel Hampton, direi di ascoltare anche quella proposta da Duke Ellington. Perché se sei un musicista di jazz e devi festeggiare il Natale, comunque Jingle Bells devi saperlo suonare. Assolutamente sì, per forza. Eh sì, è vero, almeno una volta nella vita un musicista deve suonare Jingle Bells, soprattutto se sei un musicista americano. Eh sì, assolutamente, anche se in realtà Jingle Bells originariamente era stata scritta per il giorno del ringraziamento. James Lord Pierpont, che è l'autore della canzone, Jingle Bells, sì. L'aveva scritta originariamente per quella festività, poi è stata cambiata, è cambiato il testo e è stata trasportata al Natale. La cosa bella poi quando viene proposta dai musicisti di jazz sta nell'improvvisazione e anche nell'arrangiamento. Per ora abbiamo ascoltato due versioni, quella divertentissima ritmicamente boogie di Lionel Hampton, quella più jazz di Duke Ellington, e invece facciamo un salto nel presente con un'interpretazione contemporanea per il chitarrista Mark Whitfield. Sì, tra l'altro potremmo in un certo senso farci perdonare da tuo padre per non aver scelto ieri Carmen McRae, per non averla messa, perché Mark Whitfield ha collaborato più volte con Carmen McRae. Sound check. Il suono della musica. Natale Super Jazz al Soundcheck di Radio 24 con Francesco Tromba e Gigi Telesforo, e questo era il pianoforte unico di Oscar Peterson con il suo quartetto e Buddy Bregman. Il brano I Got My Love to Keep Me Warm, prendo il mio amore per tenermi caldo. Eh sì, l'amore tiene caldi. Tromba. Sì, è il calore tipico del Natale alla fine. Invece ieri tu ti sei riscaldato, ho visto che hai bevuto tanto limoncello. Eh sì, perché poi dopo aver mangiato tantissimo bisogna in qualche modo cercare di sopperire, di aiutare la digestione. Senti, mi sa che nei prossimi giorni andremo a vedere un po' di gospel. Eh sì, sarebbe bellissimo. Per caricarci poi per la puntata di Capodanno, perché lo sai che adesso andrai a casa domani, però poi devi tornare perché facciamo il 31 e il primo in radio. Pure Capodanno ti insieme. Ti preoccupare, noi facciamo il Capodanno insieme mettendo bellissima musica, sto già organizzando la puntata. Mi sa che faremo una sorta di The Best di questa prima parte della stagione 2016-2017, perché abbiamo già scoperto tanta musica buona e mi sembra anche arrivato il momento di ricapitolare tutte le cose belle che abbiamo suonato fino adesso. Sì, e poi iniziare l'anno con tanta bella musica per continuare durante tutto il 2017. Ma siamo a Natale e quindi a Natale si suonano le canzoni di Natale. Oggi suoniamo le canzoni di Natale proposte da grandi musicisti di jazz, versioni strumentali come questa di questa che è Here Comes Santa Claus, e lui è uno dei miei pianisti preferiti, tra l'altro famoso negli Stati Uniti perché per 4-5 stagioni ha condotto e realizzato una sua produzione televisiva dedicata al jazz, alla storia del jazz e ai grandi interpreti del jazz di ieri e di oggi. Questo pianista si chiama Ramsey Lewis. Ramsey Lewis, il tocco soul di Ramsey Lewis, è stato uno dei primi pianisti di jazz ad avvicinarsi al mondo del soul, e anche per merito di Ramsey Lewis poi abbiamo conosciuto gli Earth, Wind & Fire, perché Maurice White, leader compianto degli Earth, Wind & Fire, eccellente batterista di jazz che militò anche nel quartetto di John Coltrane, pensa, per alcuni concerti sostituendo Elvin Jones, quando incontrò Ramsey Lewis capì quale poteva essere la sua strada e quindi nacquero gli Earth, Wind & Fire. Ramsey Lewis registrò proprio uno dei primi album degli Earth, Wind & Fire, creando un mito nella storia della black music. E io voglio farti i complimenti perché questo pezzo di Ramsey Lewis non lo conoscevo e invece è molto bello, nonostante diciamo un po' di preclusione per la musica di Natale, nel senso che di solito sono un po' sempre le stesse cose, no? Però invece questo pezzo mi è piaciuto tantissimo. E comunque c'è un'altra versione splendida di un altro pianista leggendario, pianista bianco, pianista che è stato in qualche modo scoperto da Miles Davis quando realizzò Kind of Blue. È un pianista che poi ha segnato indelebilmente il corso della musica jazz con la sua visione armonica, e vi stiamo parlando di Bill Evans. E questa versione di Santa Claus is Coming to Town è eccezionale. Sì, l'ho ascoltata prima, me l'hai fatta sentire, veramente sorprendente quasi. Bill Evans al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Due campioni del jazz di oggi, la tromba di Roy Hargrove e il contrabbasso sonoro, inimitabile, potentissimo e super swing di Christian McBride in Frosty the Snowman. E sì, le canzoni di Natale, le composizioni di Natale vanno sempre molto forte. Alla fine, quando inizi ad avere il tuo bel successo, soprattutto se sei un cantante, prima o poi la casa discografica, in modo particolare se una multinazionale, ti chiederà di realizzare un album di Natale. Sì, e poi comunque durante il pranzo di Natale o durante la cena della vigilia avere un disco, un buon disco, cambia completamente l'atmosfera. Guarda che noi ieri non ci siamo fatti mancare nulla, musicalmente parlando. Abbiamo suonato di tutto. Intanto tutto il repertorio che abbiamo proposto nell'airplay della puntata di ieri insieme a papà. E poi tutto il gospel. Quanto gospel abbiamo ascoltato ieri? Sì, tantissimo. Poi comunque abbiamo anche mangiato benissimo, quindi proprio serata perfetta. Mattinata ancora migliore, perché comunque ci siamo svegliati anche lì con le note. Esatto, esatto. Allora, intanto io vorrei, prima di chiudere, perché ormai siamo agli sgoccioli e siamo anche pronti per l'informazione di Radio 24, direi di anticipare la puntata di mercoledì di Variazioni sul tema. Sì, perché siamo attivi anche in TV. Magari ve l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo perché siamo particolarmente felici di aver realizzato questa produzione per Rai 5, che tra l'altro è una rete eccellente che rappresenta l'arte, la cultura e la musica al meglio nel nostro paese. E quindi anche mercoledì alle 21:15 su Rai 5 saremo presenti con Variazioni su tema. Ti stai divertendo anche tu? Sì, mi sto divertendo tantissimo, ma per te poi non te l'ho mai chiesto alla fine, ma com'è stato tornare in televisione? È stato, all'inizio non pensavo di divertirmi, ti dico la verità. E invece ti stai divertendo. Negli ultimi anni ho sempre avuto problemi con la televisione, però il fatto di aver avuto in qualche modo carta bianca nella gestione della produzione, nella convocazione degli ospiti, degli amici, il fatto di riuscire a portarmi le telecamere in giro quando, per esempio quest'estate ero in tournée, la cosa mi ha divertito moltissimo. Quindi hai fatto la televisione e quasi non te ne sei accorto. Bravo, ho fatto la televisione e non me ne sono accorto. Nel senso che non è stato un lavoro, non è stato faticoso. Nel senso che non è stato faticoso, perché ho sempre un rapporto difficile con le telecamere. E invece in questo caso e invece riuscito... in questo caso, anche riguardando le puntate, proprio perché mi sono comportato in maniera molto naturale, perché avrei notato che anche gli amici che postano le cose su Facebook devono sempre sembrare o apparire belli e bravi. Eh sì, poi il trucco in televisione, le luci, tutte degli espedienti sembrare meno vecchi. Non c'è trucco, non c'è inganno in variazioni sul tema, e poi puntate divertenti. In alcune puntate siamo stati più o meno seri, in altri ci siamo proprio divertiti. Quindi se volete vedere Gigi Telesforo al naturale dovete continuare a seguire Variazioni su tema. Oppure potete venirci a trovare qui nel Groovemaster Studio quando realizziamo il nostro soundcheck. Siamo agli sgoccioli, direi di chiudere con questa versione splendida di Let It Snow per Nelson Rangel. Francesco, ti auguro ancora buon Natale, lo auguro a tutti voi in contatto. Noi ci risentiamo qui su Radio 24 sabato prossimo, il 31. Per la puntata di Capodanno. Per la puntata di Capodanno, per Bacco, anche questa è fatta, Francesco. Un altro anno è passato. Buon Natale a tutti voi. Tanti auguri.